This is not an exit. Digressioni musicali dalla fine del secolo breve. Stroke at 82, he was too impulsive to wait. He hung around in a car full of idiots and went to football to learn how to kill. Shot himself when he was 24. He got married to a life support sister. No one came to weep or give him flowers. No one even bothered to turn the damn thing Buonasera a tutti, anche questo giovedì sera 21 gennaio 2016 siete in compagnia di del dottor Scarpa, di Matteo Cortesi e del sottoscritto. Ciao a tutti. E questa sera una puntata insolita, quantomeno insolita, perché non mettiamo le solite brani di gruppi famosi, ma esploriamo qualcosa di veramente sconosciuto. È difficile anche trovare notizie su internet dei Lubricated Goat, gruppo che questa sera esploreremo in lungo e in largo e tipici proprio del nostro periodo 88-93. Sì, poco famosi, grande pubblico, però poi guardando le note, insomma, a margine di, insomma, la biografia di questo gruppo, si nota le numerose amicizie e collaborazioni che ha avuto il cantante Stuart Gray, appunto, inglese trapiantato in Australia a soli 5 anni, poi insomma fa un po' su e giù fra la terra natia e l'Australia. Un vero nomade che poi comunque si trasferisce anche per diversi anni negli Stati Uniti, ha avuto anche delle vicissitudini abbastanza negative, come il Roddy che abbiamo ascoltato prima dei Black Flag. Anche lui aveva avuto un problema a New York, un accoltellamento, quindi insomma evidentemente New York per gli artisti è una città molto, molto nefasta per certi versi. Quindi lui comunque grande artista e molte amicizie, insomma ha girato un po' tutte queste nazioni musicali anglosassoni. Tra l'altro poi i dischi sono stati anche riprodotti dalla Amphetamine Reptline, insomma, anche per il mercato statunitense. Ma non solo, lui ha inciso più o meno per tutte le etichette che tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90 contassero qualcosa, tra le altre Sub Pop, Amphetamine Reptile, Sympathy for the Record Industry e Reptilian. Ma ne è rimasto ben poco. We'll be right back. 21 e 16 minuti primi, siete in diretta su Radio Città del Capo, 94,7, 96 e 25 MHz nell'area bolognese, oppure siete in streaming dal nostro sito www.rcdc.it, vale anche se non ci sentite proprio bene. Vi ricordo che potete mandarci qualche sms 348-76-49-289, ripeto 348-76-49-289. Insomma, stiamo parlando di qualcosa che era poco conosciuto in Italia, magari negli Stati Uniti sì, perché come abbiamo detto prima, il buon Stuart Gray, che aveva un bellissimo pseudonimo, Stu Spasm, che era tutto un programma, era un po' conosciuto nel resto del mondo, forse, soprattutto in Australia, ma insomma, anche lui non è che si facesse di tutto per farsi conoscere. Teniamo conto che i Lubricated Goat nascono quasi come una band di quartiere, comunque quasi per divertimento. Il classico gruppo nato in reazione a una reazione. Siamo comunque nell'86 e con un po' di amici, un po' di musicisti, la cosa buona di suonare in un posto dove tutti si conoscono perché c'è poco da fare, l'Australia, ne abbiamo già parlato diffusamente, è un continente che conta un paio di decine di milioni di abitanti, poco più, e per di più concentrati in piccole e grandi città, era facile suonare un po' con tutti e conoscere un po' tutti. Era quindi una situazione periferica della periferia e potevi permetterti di riscoprire più o meno tutto, nel suo caso il punk. Stu Spasm a modo suo rinnovò e riscoperse il punk sulla falsa riga di un altro grande suo conterraneo, ovviamente Nick Cave, ma il Nick Cave della prima ora, quello dei birthday party più infiammati, truculenti e grevi. Lui ci aggiunse parecchio di suo, cominciando a parlare come un novello de Sade di ogni tipo di efferatezza sessuale e via dicendo, incarnando in questo modo praticamente quello che il punk poteva essere 10 anni dopo il punk. Il punk aveva già tagliato parecchio, quasi tutto, lui non poteva più recuperare le musiche nei 50 e quindi recupera il post-punk, quello di inizio 80 e degenera. Yeah. world is gone mad. The world is gone mad. Believe me, the world is gone mad. The world is gone mad. Come dicevamo, i Lubricated Goat in realtà, a causa o malgrado lo spostamento continuo del leader, erano nient'altro che la sua incarnazione, appunto, di Stuart Gray. Stu Spasm, per gli amici e comunque noto al grande pubblico come Stu Spasm, che si è spostato tantissimo, inizialmente a Perth, ad Adelaide, a Sydney, per poi muoversi a Londra e poi a New York, dove era approdato, appunto, come abbiamo accennato, a grosse etichette. Quello di appiopparsi pseudonimi, nom de plume si direbbe, per fare i grandi fini, ma non penso fosse il suo caso. Era un modo tipico dei panchettoni degli anni Ottanta, non è l'unico, giusto? Certo, infatti è una caratteristica che accomuna molti dei gruppi di quel periodo, ma di anche prima, dagli anni 70 in poi, soprattutto di area punk hardcore, a cominciare dai Crass, tutti quanti i Crass, poi dopo i Black Flag, Will Shatter e Bruce Lewis per i Flipper, ma Stu Spasm probabilmente li batte tutti come nome che si è scelto. Il vero nome era Stuart Gray, stesso cognome del protagonista di 50 sfumature di grigio, lui però si chiamava Christian di nome. Sì, e poi Gray faceva un po' troppo, come dire, era quasi nobiliare. E non gli andasse, non penso gli andasse molto a genio. Heaven, it's paradise.

21 e 37 minuti primi qua a Radio Città del Capo, state sempre ascoltando i Lubricated Goat, un gruppo che si può sentire e ve li facciamo ascoltare volentieri. Raramente, erano veramente dei selvaggi, non penso che nessuno qua in Italia li abbia mai visti dal vivo, non so neanche se siano mai venuti, ma erano piuttosto famosi anche per le loro esibizioni dal vivo, fin dagli inizi. Esattamente. Nel 1988, in occasione dell'uscita del loro primo album In The Row, e i Lubricated Goat si esibiscono in un programma televisivo australiano, Bla Bla Bla Show, famoso per le sue esibizioni rigorosamente in playback. Loro effettivamente si attengono a questa regola, si esibiscono in playback. Il problema è che si esibiscono completamente nudi, una pratica che poi diventerà abbastanza diffusa. Io mi ricordo per esempio un gruppo neozelandese, gli Head Like a Hole, che erano famosi per le loro esibizioni completamente nudi, ma... Per non parlare delle docce di Pepper. Esattamente, i Jane's Addiction, eccetera, eccetera. Ma, beh, come, diciamo, gesto passò abbastanza in cavalleria, se si considera che pochi anni dopo David Yo dei Jesus Lizard venne arrestato per aver esposto i suoi genitali in pubblico. Insomma, in un posto dove non puoi cantare la tua voce nuda, io mi metto nudo, cioè alla fine qualcosa di nudo ci deve essere, giustamente. I nostri non si fanno mancare niente, poi in Australia si gira spesso nudi perché fa caldo, quindi l'abitudine è tanto uno slip sottotti alla fine, veniamo dalla spiaggia. No, beh, scherziamo, comunque loro hanno avuto un sacco di hanno girato il mondo praticamente, però prima mi sono sbagliato perché l'accoltellamento avvenne a Berlino. A Berlino e poi fu ricoverato in un ospedale in Svizzera, però New York ci sta perché poi lì conobbero i Cop Shot Cop, noto gruppo newyorkese appunto, che erano in tour in Europa e li portarono poi, dopo averli conosciuti, li portarono appunto a New York nel giro newyorkese, quello Noise che conosciamo bene, Unsane, Cop Shot Cop e quant'altro. Santa Cabatia for a funeral on a spit. Cappuccino for a funeral on a spit. Beh, tanto per farvi capire qualcosa del personaggio, se i Guns N' Roses si facevano mantenere dalle ballerine del Sunset Boulevard dello Strip, insomma, il nostro invece faceva direttamente il cabarettista in uno strip club di Perth, oltre a cantare nel Lubricated Goat, aveva proprio un suo numero, si chiamava Chicken Holder, e più o meno c'è anche un'intervista che lui rilasciò parlando di queste cose, più o meno cercherò di interpretarla. Il Chicken Holder era un posto sofisticato, un nightclub sofisticato. Quando ero a Perth stavo facendo questo numero di cabaret che si chiamava Chicken Holder. Era tipo un esercizio, mi spingevo così tanto avanti fino al punto di cercare di essere un performer. In realtà era qualcosa di disgustoso, andare in giro per il locale vestito da drag queen sexy. Era come essere Marlene Dietrich, ma invece di andare in giro e sederti sulle gambe degli avventori, che era quello che facevo, solo che ero un maschio, ero travestito e quindi non era esattamente attraente, anzi era piuttosto disgustoso. Un po' come un Frank Sinatra, appunto, che terrorizzava gli avventori. Spoken God. Beh, alla fine i Lubricated Goat non ebbero molto successo, anche perché in Italia, perlomeno, non è che fossero poi così pubblicizzati. Chiaro, qualche recensione nelle riviste specializzate, ricordiamo Rumore o Rockerilla, usciva, ma insomma erano coperti da un'infinità, veramente un'infinità di uscite. L'88-93, il periodo che osserviamo, è particolarmente florido. Erano capaci di uscire una manciata di dischi degni di ascolto o addirittura molto belli tutti i mesi. Esattamente, infatti mi ricordo proprio nei vecchi numeri di Rumore c'erano recensioni anche di 5 righe di dischi importantissimi, perché usciva troppa roba e tutta rilevante. E i Lubricated Goat sono stati coperti, hanno avuto comunque una copertura stampa, ricordo le recensioni su Rumore eccetera. Comunque l'esempio più meritorio è questo libro di Andrea Prevignano, che uscì nel 1998 per Castelvecchi, una casa editrice magari discutibile sotto il piano etico, ma di certo non mancava di coraggio. Pubblicò un libro intitolato Noise, in cui si parlava solo ed esclusivamente di noise rock, e a cura di Andrea Prevignano, una firma di Rumore di quegli anni, e in cui a pagina 100 del libro parla diffusamente della scena australiana. E cito testualmente: il gemellaggio tra l'australiana Aberrant e l'Amphetamine Reptile ha portato nel catalogo di questa un'altra band seminale come Kingsnake Roost, e ha aperto le porte ad almeno due altre, Lubricated Goat e Cosmic Psychos. I Kingsnake Roost di Sydney hanno realizzato tra il 1987 e il 1990 tre album della Aberrant, ristampati a un anno dalla loro uscita dall'Amphetamine Reptile per il mercato americano: From Barbarism to Christian Manhood, Things That Play Themselves e Pound Into the Dirt, il loro più conosciuto, prodotto da Butch Vig. La band, capitanata dallo spigoloso chitarrista Charles Tornail e dal cantante Peter Hill, ha dato corpo a un ibrido nel cui patrimonio genetico troviamo tracce di Birthday Party e Ted, dissonanze gratuite e suoni scomposti. Esattamente nello stesso periodo i Lubricated Goat del chitarrista e cantante Stuart Gray e dell'ex bassista dei Salamander Jim Lachlan, tra i più accreditati veterani del noise blues, hanno dato alle stampe Lubricated Goat Plays the Devil's Music, Paddock of Love e Psychedelic Essen per l'australiana Black Eye, nota per alcuni lavori di un'altra noise blues band, i Beasts of Bourbon, prontamente riediti dall'Amphetamine Reptile. We'll be right back. 22:10 minuti primi in diretta da Radio Città del Capo, This is not an exit. Tanto per farvi capire come venivano registrati i dischi di Lubricated Goat e che tipo fosse Stu Spasm. A un certo punto Stuart torna a Sydney, molla Martin Bland e si mette così quasi per scherzo a registrare con Martin Bland, che ricorda più o meno così l'incisione di Play the Davis Music, che poi risultò essere il vero e proprio primo loro LP nell'88. Più o meno dice questo, che quando sei in Adelaide non è che non hai molti posti dove andare a divertirti, tranne qualche pub, ma diventa un po' noioso. Quindi si rinchiusero nel suo studio, lui aveva un 4 tracce della Tascam piuttosto buono, e si misero a scrivere un po' di canzoni idiote. C'è poco da fare, Stu Spasm, già dal nome lo potete capire, era un punk guascone come minimo. Beh, insomma, un'altra cosa che avevamo pensato bene di fare è di scrivere delle canzoni per un paio di amiche che facevano le spogliarelliste appunto ad Adelaide. E allora cosa fanno? Si mettono in studio e scrivono dei pezzi per spogliarelli. Questo era il loro intento. A quel punto Stuart prende la registrazione e poi sparisce. Se ne va, ritorna probabilmente negli Stati Uniti e dopo un anno Martin Bland, il batterista appunto di quell'occasione, si vede recapitare a casa un disco e nei crediti c'era appunto lui come batterista ed era quello che avevano registrato nello studio di casa sua. Tutto qua, è tutto molto punk. Church, and they pray on me and you. comunque non è che anche dopo il secondo album, che si chiama Paddock of Love, i Lubricated Goat divennero poi così famosi. Uscivano su una piccola etichetta australiana, si chiamava la Black Eye Records, e sembrava che ogni volta che la Black Eye Records pubblicasse qualcosa in Australia fosse un fiasco, quantomeno così era trattata la stampa locale. Non era così negli Stati Uniti, anzi, i Lubricated Goat furono seminali, come si suol dire, o comunque molto, estremamente influenti sulla scena di Seattle, quella che poi noi abbiamo chiamato grunge. Ricordo, siamo alla fine degli anni 80, il grunge stava per esplodere e parecchi gruppi dell'epoca citano i Lubricated Goat come loro influenze. Era tipico di quel periodo mescolare generi di ogni tipo. I Lubricated Goat addirittura mescolavano cose che sembravano distantissime tra musica industriale, funk, blues e soul. E poi chiaro, l'uso del sintetizzatore e del sax distorcevano un po' tutto. Questo approccio probabilmente servì parecchio ad avvicinare il metal e il punk, quello che poi fecero quasi tutti i gruppi di Seattle. Oltre a un'altra cosa che probabilmente li accomunava, l'uso e l'abuso di sostanze stupefacenti. Esattamente, infatti, come è già stato poi detto prima, nel 1990 Stu Spasm è stato pugnalato da spacciatori arabi mentre era in tour in Europa, per la precisione a Berlino, durante una transazione finita male. In seguito a questo fatto ha messo in pausa la band e si è trasferito a New York. E a New York ha incontrato Kat Bieland delle Babes in Toyland, con cui ha iniziato una relazione e si è sposato. Poi vabbè, si sono lasciati nel 1995, ma intanto hanno collaborato insieme ed erano gli anni 90 del fumetto Tank Girl, del movimento Riot Girls, di gruppi come L7, Tribate, ma anche Hall e Four Non Blondes. E tra tutti questi c'erano anche i Janitor Joe, un gruppo noise che finirà per incidere anche per Amphetamine Reptile, dove nel primo disco ha suonato la futura bassista delle Hall, Kirsten Pfaff, morta a 16 anni il 16 giugno 1994, poche settimane dopo Kurt Cobain, entrando a far parte del famigerato Club dei 27, musicisti che morivano a 27 anni. Beh, all'epoca davvero tutti suonavano con tutti, ricordiamo che anche Russell Simmons della John Spencer fece il gruppo insomma insieme a lui e a sua moglie, quindi davvero vari generi che comunque si sposavano fra di loro, a parte i soggetti che si sposavano fra di loro, anche i generi musicali si sposavano fra di loro e facevano tutta una gran Beh, e con questo buonanotte a tutte e a tutti. Ringraziamo il dottor Scarpa e Matteo Cortesi di essere stato qua con noi in studio. Ci sentiamo giovedì prossimo, sempre alle 21, con un'altra puntata di inediti, di cose strane, di finti inediti, insomma, di cose ripescate, dai. Sì, ciao a tutti, buonanotte e a giovedì prossimo. Bella.